Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo, stasera ospite la formazione Parmense dell'Inas Bedroom. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Memo Love Chronicles, come il primo che è andato in onda a titolo Chewing Razor Blades. La vostra esperienza durante la registrazione e quali le linee guida che hanno realizzato questo CD? Linee guida, diciamo, sono stati qualche mese di jam session e di raccolta materiali di cose che magari avevo già scritto in precedenza. Abbiamo riarrangiato, chiusi in stanza, poi abbiamo fatto la cernita dei pezzi, cioè quelli che suonano di più di meno, quelli che potevano fare gioco per il concept, e niente, poi siamo andati in studio. La mia guida spirituale è stata Nicola, che appunto, avendo maggiore esperienza, ci ha guidati sia nella realizzazione del CD che nella registrazione, e proprio per questo per me è stata anche una curiosità vedere meccanismi che di solito non si è abituati a vedere, non si è abituati a stare in uno studio di registrazione, non capita tutti i giorni, ecco. La prossima canzone per i nostri ascoltatori è Equal to O. In studio ancora con il Inas Bedroom, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti e cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato messo in evidenza? Ma spesso ci dicono che abbiamo una pasta piuttosto americana per essere un gruppo italiano, che personalmente, credo anche per gli altri, è un piacere? È un grosso piacere, perché gli americani sono, cioè in fatto di musica, sono quasi sempre i migliori al mondo, personalmente, 50-50 Inghilterra-America, diciamo. Sì, diciamo che comunque il sound è quello è estero, e questo ci fa piacere, perché insomma quello, non perché vogliamo fare la copia carbone di gruppi che è il rischio poi anche. Sì, però diciamo che per un certo tipo di musica, un certo tipo di messaggio, di cose, che secondo me sono le la strada migliore è quello di farla il più americano o inglese possibile. Non esiste via di mezzo, anche perché noi cantiamo in inglese, quindi il punto è anche quello. Prossima canzone. Prossima canzone è la nostra versione di Missing degli Everything But The Girl. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con Ilina's Bedroom. Rimanete ancora su Radio RCS. Like the deserts miss the rain.